24 mattino estate con Irene Zerbini. Sì, estate, e allora buongiorno, è il 12 agosto, benvenuti, ben ritrovati, 16 minuti dopo le 7. Si parla oggi di revoche da parte dell'INPS di 40.000 assegni. Nel 2010 sarebbero stati messi a segno truffe per 100 milioni e su pensioni di invalidità che hanno percepito persone che non avrebbero avuto diritto o addirittura persone ormai defunte. Ne parleremo tra pochissimo con il presidente dell'INPS, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ad Antonio Mastrapasqua. Dunque, abbia un po' di pazienza perché ci concentreremo ora su il sondaggio di Radio 24 alle 8:30 in bianco e nero. Oggi affronteremo un'altra minaccia per le scuole. 2.400 edifici a rischio amianto, un po' in tutto il territorio nazionale. La presenza di amianto è stata scoperta nelle pavimentazioni, nelle palestre, nei muri ed è materiale cancerogeno che dovrebbe essere solo un ricordo, era stato utilizzato massicciamente per le caratteristiche di resistenza anche al calore negli anni del boom in Italia, e invece non è stato eliminato ancora, nonostante poi se ne fossero scoperte le caratteristiche di pericolo. Invece nelle scuole dei nostri ragazzi ce n'è tantissimo, disseminato un po' dappertutto. Ora, il ministro Gelmini ha dato notizia che la bonifica comincerà da ottobre, dopo un'inchiesta giornalistica che ha sollevato il problema, e oggi noi vi abbiamo chiesto: vi tranquillizza questa promessa? Potete votare al sondaggio di Radio 24 su www.radio24.it, e poi affronteremo anche questa pagina ancora una volta complessa e in qualche modo che getta preoccupazioni sulla scuola. Torniamo alle nostre pensioni, perché è un indicatore sociale e di civiltà molto importante, e ringrazio Antonio Mastrapasqua per il suo tempo. Innanzitutto partiamo dalla notizia: le somme versate nel 2010 a chi non avrebbe diritto o a persone ormai defunte, a quanto ammontano, Presidente? Ma noi abbiamo fatto per la prima volta, ed è importante sottolinearlo, questa quantificazione, che scaturisce ovviamente dalle volte che ce ne siamo accorti e le denunce che abbiamo effettuato, che purtroppo ammonta a circa 100 milioni di euro, quindi abbiamo sventato truffe per 100 milioni di euro. Abbiamo denunciato più di 5.000 persone, 976 sono state poi realmente indagate, 135 arrestati, 42 condannati e 32 in attesa di condanna, quindi un'attività incredibile in 7 mesi che fa capire come l'istituto sia passato da un ruolo passivo a un ruolo di collaborazione, un ruolo attivo con la magistratura, con le forze dell'ordine, che ringrazio, con la magistratura contabile. Quindi quello che forse per un lungo tempo era stato un po' un luogo dove si poteva, non dico facilmente, ma con abilità raggirare l'INPS e quindi lo Stato, perché i soldi dell'INPS sono i soldi dello Stato e dei lavoratori, beh, oggi posso dire che è finita la festa ed è iniziato un momento di duro confronto e dura lotta a tutte queste truffe. Presidente, per quel che riguarda la casistica degli assegni che verranno a questo punto revocati, sono circa 40.000. Che tipo di assegni sono? Sono pensioni di invalidità, in questo caso abbiamo detto false, sono pensioni per persone decedute? Cioè, ci spieghi un po' di più quali sono questi assegni che sospenderete? Ma guardi, il primo in classifica, purtroppo come sempre, sono i cosiddetti falsi invalidi. Lì abbiamo revocato 40.000 assegni di invalidità, l'abbiamo subito sospesi e poi successivamente avviene la revoca. E questa sono la parte più importante del contrasto alle truffe. Secondo, ci sono le truffe in agricoltura. Tutte le persone che percepiscono gli indennizzi effettivamente non erano mai scesi in un campo a lavorare, ma avevano solamente truffato sia dipendenti che datore di lavoro o l'INPS, usando vecchie tecniche che oggi non sono più possibili. Inoltre ci sono tutti quelli che percepiscono le pensioni dei defunti, anche lì questo con la nuova tecnologia, una nuova legge che impone ai comuni di comunicarci telematicamente i deceduti, non sarà più possibile perché noi lo avremo su sistema informatico entro 48 ore e a quel punto comunichiamo alla banca e inoltre abbiamo fatto un accordo con la magistratura, denunciamo automaticamente gli eredi di quelli che si impossessano dei soldi ancorché noi abbiamo annunciato alle banche di bloccare il flusso. Quindi quello che mi piace sottolineare, che ho piacere dire attraverso i vostri microfoni, è cambiato un modo, mi viene in mente per esempio le truffe che ci hanno fatto tutti gli avvocati, 20 avvocati di Roma che hanno falsificato i documenti per incassare le pensioni di un nutrito gruppo di persone che risiedevano in Argentina. Abbiamo scoperto questo, abbiamo denunciato i 20 studi, a Foggia ci sono, abbiamo scoperto più di, noi riteniamo 50.000 pratiche di indennità di disoccupazione agricola false, abbiamo fatto denunciato alla magistratura, sono indagati 5 studi professionali, tra cui quelle di un esponente diciamo locale che accusava l'INPS di essere un po' prepotente, ecco lui oggi è il più indagato e abbiamo bloccato qualcosa che l'anno scorso ci è costato più di 60 milioni di euro di spese legali totalmente indebite e oggi stiamo andando al recupero. E c'è un'altra novità che è stata annunciata e vorrei lei ci spiegasse meglio e riguarda questo team che dovrebbe sorgere all'interno dell'INPS per dei controlli sistematici, ma ci spieghi meglio lei cos'è questa unità di controllo? Ma guardi, tutto è nato un anno e mezzo fa quando l'istituto ha attivato una direzione centrale, quindi la massima livello di direzione, una direzione centrale audit e ispettorato, chiamando dall'esterno un giovanissimo generale della Guardia di Finanza, il generale Marica. Adesso, dopo un anno e mezzo di lavoro e i risultati ci sono, la direzione del dottor Marica si va a rafforzare con un ufficio proprio denominato antitruffe, quindi ci sarà un ufficio alle sue dipendenze per coordinare l'attività su tutto il territorio nazionale, per prevenire, per creare tutti i presupposti informatici e di atteggiamenti, quindi di procedure per contrastare la lotta alle truffe. Senta, a quanto ammonta in media un assegno rilasciato a un invalido, falso o vero che sia? Ma guardi, va dai 300 euro se è un invalido ai 600 euro mensili se è un invalido con indennità di accompagnamento. Non sono cifre da ricchezza proprio. Sono pochi soldi mensili, ma purtroppo per i grossi numeri, noi quest'anno abbiamo pagato più di 2.700.000 assegni agli invalidi che poi fanno una cifra record di 16 miliardi di euro l'anno, un punto di PIL, oggi che si vive la crisi si capisce quando si dice che l'Italia se potesse crescere di un punto di PIL, ecco un punto di PIL lo tolgono gli invalidi. Sicuramente la maggior parte sono veri ed è doveroso darli, ma una grande percentuale forse non lo sono e sottraggono risorse allo Stato. E queste risorse destinate agli invalidi o agli handicappati o a chi ha subito incidenti invalidanti, lei ha detto ammontano più o meno un punto di PIL, ma sono in linea con quello che destinano gli altri paesi, diciamo così, industrializzati, perché il soccorso dei deboli è una delle missioni anche economiche dello Stato. Ma soffermiamoci invece su questi falsi invalidi. Le vorrei chiedere questo, Presidente. Qualche anno fa c'erano questi casi clamorosi del cieco che guidava, che si conquistava, poi una volta scoperto naturalmente il titolone dei giornali. Ora c'è un timore, e glielo faccio presente perché lo sottolineano i pensionati. C'è il timore che l'invalido a cui verrà revocato l'assegno possa essere anche un vero invalido, scusi se scomodo questi aggettivi, ma tanto per capirci, in quanto l'assegno viene assegnato sulla base di una percentuale di invalidità. A quanto ammonta la percentuale di invalidità in questo momento per poter essere assistiti in qualche modo? Ma guardi, la percentuale è rimasta invariata al 74%, così come da 15 anni a questa parte, quindi non c'è nessun timore, le verifiche vengono fatte applicando le stesse percentuali, le stesse tabelle che ci sono in vigore da 30 anni, quindi è un allarme ingiustificato perché nulla cambia. Sicuramente possiamo rassicurare, dunque, possiamo rassicurare chi veramente vive in una situazione di... c'è stato un grosso dibattito in Parlamento, volevano aumentarla, poi alla fine il Parlamento ha deciso con saggezza di lasciarla al 74%, quindi nessuno ha da temere sulla percentuale. Sicuramente le visite che fanno i medici dell'INPS, al quale va tutta la mia gratitudine, fanno sì che quelle percentuali vengano applicate veramente e seriamente, e non come hanno fatto tanti medici delle ASL. Mi piace ricordare che nella lotta alle truffe c'è un comma della manovra appena approvata dal Parlamento che credo faccia un po' desistere i medici delle ASL di avere un atteggiamento spesso generoso. Un medico che accerta, dove noi accertiamo un falso invalido, automaticamente, quindi non abbiamo discrezione, la legge ce lo obbliga, lo dobbiamo denunciare alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti dovrà perseguirlo per la restituzione sia dei soldi che noi abbiamo erogato, sia per il danno d'immagine provocato all'amministrazione, e si avvia la pratica per la revoca della sua licenza di poter operare come medico. Quindi è una misura fortissima, ma credo che i veri invalidi lo pretendano, non i falsi invalidi. I veri invalidi pretendano che i medici siano seri con loro e seri anche con i falsi invalidi. Certo, lei dice migliorare il sistema così che chi merita veramente di percepire l'indennizzo non venga penalizzato da questa sottrazione indebita di denaro. Quello che è successo in questi anni è che gli invalidi falsi vengono accertati da medici, non sono stati fatti a tavolino, e quindi fino a oggi i medici non hanno mai pagato, leggendo sul giornale e sorridendo, ecco, oggi sorrideranno un po' di meno e saranno molto più attenti e daranno la vera invalidità in tempi più rapidi a chi ne ha diritto, e lo Stato ha il dovere di erogarla. Presidente, ma perché i medici delle ASL avrebbero dovuto sistematicamente, secondo lei, favorire questo andazzo? Si è creata una eccessiva vicinanza tra i poteri concessori. Pensa che nelle quasi totalità delle regioni del sud fino a pochi mesi fa il potere concessorio era dei comuni, nei comuni c'erano tanti politici, ci sono comuni interi della provincia di Napoli dove i politici sono stati indagati ed arrestati perché costruivano d'accordo con le ASL le invalidità, ci sono dei picchi di incremento di invalidità durante i periodi elettorali. A quanto pare la vicinanza tra poteri ha determinato una leggerezza, se così si può chiamare, nella discrezione. Questa oggi non c'è più, la totalità delle regioni, e questi li ringrazio, ha attribuito all'INPS il potere concessorio, quindi non più un passaggio di carte ma tutti all'INPS. L'unica regione è il Molise, ma insomma speriamo che anche lui si convinca di darcelo. Grazie, un quadro molto chiaro quello tracciato su questa operazione dell'INPS, e poi sì, ancora la triste classifica delle regioni con la quota più alta di falsi invalidi: la Basilicata, stando ai campioni delle verifiche INPS, al 29%, quasi uno su tre degli invalidi da Potenza Matera si è visto revocare la prestazione, e questo è circa 4 volte tanto, ci racconta anche il Corriere della Sera, in termini percentuali rispetto alla Toscana. È stato con noi il presidente dell'INPS, che ringraziamo per il suo tempo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti voi, buongiorno. Antonio Mastrapasqua, che lasciamo, ci ritroveremo tra pochissimo con la rassegna stampa, ancora alle 8:30, per parlare dell'amianto. Amianto in 2400 istituti scolastici italiani. La Gelmini, dopo un'inchiesta giornalistica che ha smascherato questa situazione, ha promesso: provvederemo alla bonifica. Questa promessa vi tranquillizza, e la domanda di oggi: www.radio24.it per votare. 24 mattino estate. Good Morgan, buongiorno, benvenuti. Ci siamo buttati sullo svedese questa mattina. Ancora un saluto da Irene Zerbini a tutti voi e ad Ake Malm. Ake, benvenuto. Ah, buongiorno. Good morgon. Ake è stato il corrispondente per anni di Aftonbladet, cioè il principale quotidiano svedese, anzi il quotidiano a maggior diffusione in tutta la Scandinavia. Se pensate, qual era la vostra tiratura media? Qual è? Oltre 500.000. Su una popolazione in Svezia, lo ricordiamo, di 9 milioni di abitanti. Sei riuscito a organizzare una trasmissione completamente dedicata al Risorgimento italiano e ai festeggiamenti del 150esimo anniversario dell'Unità. Sì. Ci ha sorpreso, diciamo, questo. Non era soltanto una trasmissione, era una serie di trasmissioni di quattro programmi di un'ora ognuno, che venivano poi replicati per un totale di 12 ore di trasmissione in un mese, mese di febbraio. 12 ore di trasmissione sul Risorgimento italiano e sull'Unità d'Italia. È un record, vero? Complimenti, o per il tuo spirito di persuasione o davvero non succede nulla in Svezia, non credo. Il vero problema, diciamo, era come sempre per il corrispondente all'estero riuscire a convincere i capi, i direttori della importanza dell'idea che uno ha in quel momento, no? Lo ricordiamo, tra l'altro, che ha un passato di storico, non è semplicemente un giornalista, ma è meraviglioso che al pubblico svedese questo programma non sia solo così piaciuto, ma addirittura l'abbiano trovato entusiasmante. Sì, ho avuto veramente tante lettere da ascoltatori, quelli che forse facevano più piacere, diciamo, nell'intimo mio, era l'insegnante di storia nel liceo, anche qualcuno nell'università, che diceva che è stato molto utile e divertente, si poteva anche, diciamo, utilizzarlo nel loro lavoro pedagogico. 12 ore di trasmissione sull'Italia, sull'Unità d'Italia, prima mandata in onda sul canale culturale, poi sulla rete più popolare della radio svedese. Ma raccontaci qualche altro episodio che ha appassionato i tuoi ascoltatori e che tu hai trovato significativo per raccontare questo paese. Io partivo proprio con l'inno nazionale italiano quando fu cantato nel Stadio Olimpico di Berlino nel 2006. E sei partito da Fratelli d'Italia e su quali tappe ti sei soffermato velocemente? Ho seguito soprattutto poi naturalmente la creazione della Repubblica Cispadana, Cisalpina, ho chiuso con la breccia di Porta Pia. Ah, no, sì, hai preferito evitare l'avvicinamento pericoloso alla cronaca, alla cronaca di oggi. Tornando invece agli altri tuoi lavori per la radio pubblica svedese e per Aftonbladet, per il principale quotidiano, quali articoli hai scritto? Su quali aspetti della vita e della politica italiana ti sei soffermato? Ma soprattutto naturalmente in questi ultimo periodo il principale protagonista, diciamo. Aspetta, fammi pensare, diciamo, fammi pensare chi può essere male, stato. Sì. Berlusconi, no? Berlusconi. Sì. E questo ci ha dato. Io ho anche scritto un libro sull'argomento per presentarlo, ma quel libro è ormai a 6 anni è già passato. E ha venduto? Sì, sì, abbiamo venduto parecchio. E a parte Berlusconi e le pagine politiche, su quali vizi, virtù? Il problema della politica italiana normalmente questo, che è estremamente complicato, uno deve avere molto chiara la storia per capire le cose che succedono oggi. No, ma invece il vostro sistema con la monarchia è più semplice? Monarchia, primo ministro, ognuno rispetta i propri confini. Non ci sono interferenze, sì, ingerenze? No, non c'entra. La monarchia, diciamo, è stata praticamente abolita nel 75 quando si è fatta la riforma costituzionale. Il re oggi è puramente decorativo, diciamo. Però c'è. Sì, certo. Quindi tecnicamente non siete una repubblica. Diciamo, anche il sostegno, diciamo, chi è convinto che la monarchia sarebbe la cosa migliore sta diminuendo sempre di più, soprattutto dopo l'ultimo sposalizio della principessa ereditaria, è toccato credo il minimo storico nelle opinioni pubbliche, un 38% sarebbe per la monarchia, gli altri non sono molto interessati. Ma sulla vostra corona, sì? Chi è ritratto? Sul denaro svedese chi si vede? Ah, il re, naturalmente. Ci abbiamo le elezioni politiche la seconda domenica di settembre, e la campagna elettorale sarebbe in pieno corso se non fosse per il fatto che adesso ci sono le vacanze anche qua. E allora stamattina per esempio la radio discuteva ampiamente l'argomento, veramente incredibile. Si può essere divertente facendo il politico? Ah, perché questa domanda? Il leader del partito democristiano svedese, che fra parentesi lotta per superare il 4%, se no non viene rappresentato. Ammesso, sì, c'è uno sbarramento anche lì. Ecco, in questa disperazione probabilmente ha lanciato una campagna basata tutto sull'umorismo, dove si vede il leader politico che affronta un bufalo, per esempio. È necessario essere un bufalo nella politica? È la domanda per quella affiche, diciamo. E quali sono i punti in comune tra le campagne elettorali che hai seguito in Svezia, di svedesi, con le campagne elettorali italiane? Ci sono delle similitudini? Uno dei punti, ma quelli sono ormai internazionali, no? La scuola, per esempio, si discute moltissimo. Una delle ultime proposte, invece, dal leader del Partito Liberale era di obbligare i genitori di partecipare nelle elezioni, durante le elezioni dei figli a scuola, se marinano troppo. Quindi se i figli si macchiano di assenteismo, i genitori vanno respensabilizzati, diciamo, e devono venire lì. Urbano, sono dei disturbatori. Allora sarà necessario, secondo questa proposta, non è legge per niente ancora, una maggiore presenza anche sui banchi, riscolarizzare anche i genitori. Esatto. Della scuola italiana tu ti sei mai occupato nei tuoi articoli? Come no. di quali aspetti? Ma io ho raccontato anche, per esempio, tutti i problemi che la riforma ultima, diciamo, è stato, e le proteste degli insegnanti, le proteste dei ricercatori, i problemi, come si può paragonare o mettere in confronto l'annuncio di Berlusconi su come puntare per la scuola italiana e poi ridurlo, la ricerca, in questo modo come è stato fatto. È veramente tragica la situazione, penso, in molti aspetti. E infine vorrei chiederti, quando gli svedesi vengono in Italia, i tuoi amici ti chiamano per chiederti un consiglio su dove andare, tu dove li indirizzi? Ma io ho un amore particolare per la costa amalfitana, positano, eccetera, eccetera. Ma devo dire, ho parlato con tantissimi amici qua in Svezia queste vacanze, tutti hanno un interesse molto particolare per Roma. Noi che viviamo a Roma tutti i giorni sappiamo bene i problemi. C'è qualcosa che li colpisce negativamente quando tornano? Di cosa si lamentano? Ma quelli che lamentano è un po', per esempio, com'è possibile che uno deve aspettare un'ora o giù di lì del bagagli a Fiumicino, per esempio. Questa è una rottura che molti non vogliono sopportare. E poi quelle inutili fregature dei tassisti o andare in ristoranti, pagare troppo, diciamo, questi sono punti negativi che si deve assolutamente abolire, perché la concorrenza fra i paesi turistici adesso sono fortissime. Adesso, per esempio, l'Italia certamente non è in prima fila fra i paesi turistici. Adesso abbiamo Thailand, Phuket, che è diventato quello che erano le isole Canarie negli anni 50-60. Certo, fare l'albergatore a Roma è bellissimo, perché credo che tengono sempre pieno, no? Ma a un certo momento, se uno non fa restauri e tiene l'albergo tip top, allora i turisti si lamentano. Grazie ancora per aver condiviso con noi le tue idee. Grazie a te. E grazie dunque a Hakim Malm, è in Italia dal 1963, il corrispondente di Aftonbladet, che è il quotidiano più diffuso di tutta la Scandinavia, e della radio nazionale svedese. Ci ha fatto capire come per ripercorrere anche la storia italiana, la storia del Risorgimento, pensate, bisognerà mettersi a tradurre dei programmi fatti all'estero. Un esempio incredibile di quanto possa essere interessante, oggetto di indagine, oggetto di inchieste giornalistiche, anche la storia di questo paese che, come ci fa notare un ascoltatore con un SMS, invece non va oltre la pupa e il secchione. E incontreremo un altro corrispondente dall'estero che racconta l'Italia vivendoci e osservandola con dei parametri, naturalmente con dei punti di osservazione un po' originali rispetto a quelli italiani, domani mattina alle 8:15. Non abbiamo osato raccontare ad Hakim Malm, approfittando del fatto che si trovava in Svezia in vacanza, le ultime notizie sulla scuola. Dovreste vedere le scuole svedesi, gli investimenti, la qualità, il tentativo di bilanciare quelle che sono le disuguaglianze sociali investendo le migliori energie, la migliore tecnologia, le migliori risorse sotto tutti i punti di vista, soprattutto nelle scuole che si trovano in quartieri socio-economicamente disagiati. L'Italia invece taglia, tratta la scuola sempre più come una cenerentola, e adesso si scopre 2.400 istituti scolastici addirittura sono a rischio amianto. Si comincerà la bonifica da ottobre, questo ha assicurato il ministro Gelmini, e questa è la domanda oggi del nostro sondaggio. Vi tranquillizza? Vi abbiamo chiesto. www.radio24.it. 24 mattino estate. Ben ritrovati da Irene Zerbini, cominciamo con qualche numero. Il primo è quello telefonico 800 24 00 24. Per i messaggi SMS digitare invece 349 238 6666. Ci chiedono anche l'email, e dunque 24mattino@radio24.it. L'amianto nelle scuole. Grazie per la collaborazione a tutti gli ospiti. Tra poco li sentirete. Con noi anche un genitore ostinato che ha vinto una battaglia contro l'amianto e ci racconterà la sua storia. Intanto benvenuto a Mauro Mocci, è un medico per l'ambiente di ISDE Italia, cioè International Society of Doctors for the Environment, quindi l'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente. Con noi anche Antonio Di Giovanni, il membro del Consiglio di Istituto della Scuola Bitossi di Roma, un deputato, lui è Gianluca Galletti, deputato dell'UDC, e Nino Cirillo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno, buongiorno al giornalista che ha scoperchiato questo pentolone. Dunque diamo qualche dato e cerchiamo di capire cosa hai scoperto e hai pubblicato sulle colonne del Messaggero, Nino Cirillo. Ma diciamo che il dato del siamo entrati in era un dato abbastanza agghiacciante. È abbastanza agghiacciante anche la qualità di questa linea. Scusa Nino, ma dobbiamo provare a recuperarti su un altro numero telefonico. Parlavamo del dato messo a nudo dal Messaggero, alcuni hanno detto niente di nuovo, cosa ci si aspettava. 2.400 istituti scolastici che hanno un bisogno urgente di una bonifica che partirà a ottobre, perché i 350 milioni di euro che sarebbero dovuti servire a rimuovere l'amianto in quelle scuole erano svaniti tra le pieghe dell'ultima finanziaria, cioè al danno la beffa, non c'erano più questi soldi per un intervento tanto urgente. Ora il ministro Gelmini ha fatto sapere, dopo questa inchiesta giornalistica, che probabilmente già ad ottobre partirà una seria opera di bonifica nelle scuole italiane, lo ha assicurato il ministro a un'intervista appunto al Messaggero, dopo che Nino Cirillo aveva scoperchiato dati e situazioni inquietanti. Torniamo con te Nino, dunque. Mi sentite bene adesso? Sì. Ma direi che il primo dato, che è quello che poi ci ha fatto muovere, era quello delle 2.400 scuole italiane contaminate dall'amianto. Un dato ovviamente segreto e quindi sbucato fuori fra mille difficoltà, che però diciamo ci ha comportato il fatto che in un certo qual modo concordasse con altre rilevazioni, insomma alla fine 5 scuole italiane su 100, questo è il dato, e presentano amianto nelle loro strutture, è un dato che collima anche con certe indagini di Legambiente, è un dato che collima anche con certe altre indagini di altri istituti, insomma alla fine abbiamo capito che era veramente la strada giusta. Difficoltà, tu hai detto, hai contattato il Ministero della Pubblica Istruzione, immagino, e hai avuto cooperazione in questo senso, ti sono stati forniti dati? Beh, diciamo che l'amianto è un po' come le auto blu, insomma, non se ne sa mai il numero esatto e se viene in possesso di una cifra è già una vittoria. E poi tu sottolinei addirittura ma anche un'anagrafe scolastica. Sì, assolutamente sì, quello è stato il primo problema, insomma. E poi ci siamo resi conto, il dato poi dal quale siamo partiti, che ci siamo resi conto che i soldi, quei pochi soldi o tanti che erano stati stanziati per l'amianto in prima battuta erano spariti dalla manovra finanziaria, ecco, questo ci ha fatto muovere ancora di più. E quindi diciamo che non abbiamo avuto una grossa assistenza alle spalle, neanche diciamo un grosso sostegno, ma d'altra parte in un'indagine giornalistica è anche giusto che uno scarpini un po' da solo. Tu dici che si dia da fare, senza dubbio. quello è innegabile. Ma alla fine quanto è emerso ha portato anche alla risposta della politica, alla risposta del governo e alla risposta di Maria Stella Gelmini. Intanto però c'è chi non è soddisfatto e dice servono interrogazioni, gli istituti potrebbero essere molto di più. Gianluca Galletti. Sì, noi abbiamo il timore intanto che il numero degli istituti degli edifici scolastici con l'amianto sia molto maggiore, ma soprattutto oggi la preoccupazione è che il ministro Gelmini faccia i conti senza Tremonti. Noi sappiamo che oggi il vero potere forte del governo è in mano a Tremonti e che senza una sua autorizzazione le dichiarazioni e interviste dei ministri rischiano di rimanere sulla carta. D'altra parte, vedete, questo è esattamente il risultato dei tagli lineari che il ministro Tremonti fa ormai da 3 finanziarie. Cioè, se io non do delle priorità e taglio tutti i ministeri e tutti gli interventi nella stessa misura, alla fine il risultato è questo, che anche interventi prioritari, stiamo parlando, voglio ricordarlo agli ascoltatori, della salute dei nostri figli, cioè stiamo parlando di questo. Se noi non consideriamo questa una priorità e la consideriamo come la consulenza, non so, del Ministero Pinco Pallino, alla fine siamo in queste condizioni. Sullo stesso livello, a volte sembra che si agisca, si sforbici ed è la stessa cosa, rimuovere l'amianto, dare una consulenza, qualcuno ha nominato addirittura un auto blu. Ma chiediamolo a un medico che si occupa appunto di ambiente. Lui è Mauro Mocci, con noi, buongiorno dottore. Buongiorno. Qual è il rischio per la salute oggettivo? Guardi, ormai sull'amianto sappiamo di tutto perché sono anni che andiamo dicendo delle gravi conseguenze dell'esposizione all'amianto. Sono ormai 50 anni che si sa che l'amianto è dannosissimo e provoca purtroppo alla fine dell'esposizione tumori. Il problema dell'amianto è stato che non si manifesta immediatamente, ma soltanto dopo un po' di anni di esposizione. Allora che succede? Non avendo questa correlazione immediata, si è tenuti a sottovalutare il rischio, perché l'esposizione all'amianto, che sono delle fibre molto molto sottili, una volta che penetrano nell'organismo rimangono lì e possono provocare un tumore che è conosciutissimo come tumore della pleura, il mesotelioma, famoso mesotelioma. Ora, manifestandosi dopo anni, spesso non c'è questa correlazione. Soltanto sui posti di lavoro si era visto ed era stato notato questo fenomeno. Purtroppo adesso stiamo vedendo manifestazioni di tumori anche in soggetti non esposti per lavoro, ma esposti per come e di tumori scuole, specifici di tumori specifici stiamo parlando, non il tumore specifico, il tumore, il mesotelioma della pleura, perché questo aghino sottilissimo, che è più sottile di un capello, molto, mille volte più sottile di un capello, una volta che è penetrato nei polmoni, nei bronchi, si ferma lì, l'organismo non riesce ad eliminarlo e provocando un'infiammazione nel tempo provoca questo tumore. Allora l'esposizione a questa sostanza può essere anche limitata nel tempo, non c'è bisogno di stare molto a contatto con queste sostanze che si liberano da, da una formazione che veniva fatta un composto insieme a cemento e amianto. Ora, una volta che è penetrato, come dicevo, è difficilissimo eliminarlo. Bisogna evitare che questo avvenga, e per evitare che questo avvenga bisogna togliere, e c'è una legge che ormai è del 92 che impediva la realizzazione di manufatti a base di amianto. Allora, sì, ne vietava i nuovi. Nuovi impianti e di risanare. Però di fatto bonificare quelli che già esistevano, esatto, e che già esistono. Di bonificare impediva, costa. Vietava l'importazione di amianto, la lavorazione di amianto. Ed ora questo va fatto assolutamente, perché soprattutto i bambini poi, che sono maggiormente fragili rispetto ad un adulto, perché noi parliamo sempre di esposizione degli adulti, ma dobbiamo valutare i bambini. Non a caso vediamo di recente un aumento di manifestazioni non solo per il tumore della pleura, ma per altri tumori nei giovani, nei bambini, perché sono più fragili. E stiamo vedendo un aumento dei tumori della pleura, del mesotelioma, soprattutto in persone non esposte per lavoro. Nelle donne, per esempio, c'è stato un grosso aumento. Perché mentre ma ora le devo fare una domanda specifica, una domanda specifica, dottore. Abbiamo capito benissimo qual è l'allarme, il timore, naturalmente, non che valessero di meno i tumori, come dire, sviluppati sul lavoro, ma c'era una correlazione tra l'esposizione professionale, esatto, prima, esatto, e poi questo carcinoma. E questa correlazione ormai è solo al 70%. Un'altra domanda però riguarda la bonifica. Ci è stato detto dal ministro Gelmini comincerà da ottobre, ci suggeriscono anche gli ascoltatori, come da ottobre, bisogna cominciare ora, perché l'esposizione ai lavori di bonifica può essere altrettanto dannosa. Non si bonifica mentre i bambini sono nelle scuole. Lei da medico, sì, cosa risponde? Bisogna cominciare da ieri, non da ottobre, perché in modo particolare mentre si fanno i lavori di bonifica il rischio è maggiore. Perché questa sostanza, se sta lì buona, coperta, non succede nulla. Diventa pericolosa quando diventa volatile, quando va nell'aria e si respira. Allora, le immagini che nel momento in cui si cominciassero a fare dei lavori, l'esposizione sarebbe alta, perché gli operai a forza di cose devono provocare rotture, lesioni di questi elementi. Non a caso gli unici operai ormai esposti all'amianto per il lavoro sono quelli che fanno le bonifiche. Gli altri dovrebbero non esserci più, perché nei luoghi di lavoro l'amianto dovrebbe essere scomparso, mentre invece durante le operazioni di bonifica il rischio è maggiore. Allora non si può pensare di mettere in sicurezza una scuola mentre si sta facendo lezione, questo è fuori di ogni dubbio. Voglio alcuni elementi positivi, dottore. Innanzitutto sulla trasparenza, perché è importante, allora voglio segnalarlo. Quando ieri abbiamo sollecitato il Comune di Milano a fornirci immediatamente l'elenco dei 34 istituti che potrebbero essere a rischio di amianto, ci è stato fornito tempestivamente, e i lavori di bonifica nelle scuole milanesi sono già iniziati e molti termineranno proprio il 30 agosto, per non pregiudicare l'inizio dell'attività scolastica. Un'attenzione doverosa. E poi voglio raccontare questa storia che viene da Roma, dove una battaglia contro l'amianto è già stata vinta in un istituto grazie all'ostinazione dei genitori. Con noi ce n'è uno, Antonio Di Giovanni, che ringrazio per il suo tempo. Cos'è successo, Antonio? Buongiorno. È successo che questa scuola è stata pavimentata probabilmente intorno agli anni 80 con delle mattonelle divi di amianto che si sono rotte in molti punti, e poi bisogna immaginare che questo plesso è frequentato da circa 700 bambini tutti i giorni, bambini che muovono sedie, muovono banchi, e il nostro arredo scolastico è nelle condizioni che immaginate e che ricordate. Sì, perché è lo stesso che abbiamo usato noi da piccoli. Esatto, io che lo frequento come papà me ne rendo conto. Gommini sotto le zampe delle sedie e dei banchi non ci sono, quindi questi pezzi di ferro raschiano continuamente il pavimento che contiene queste fibre. Le porte sostituite sono scadute dai loro cardini, e quindi ogni volta che si apre sfusciano sul pavimento, sollevando, perché mancano, si vede proprio, mancano proprio dei pezzi completi di struttura, quindi è chiaro che c'è stata negli anni una dispersione. Ora, l'idea era quella di far pulire il pavimento, perché all'inizio noi non sapevamo dell'amianto. Cioè, pensavate fosse polvere, pensavate fosse incuria, pensavate fosse Sì, perché se lei immagina detrito. Di cui manca una parte di copertura, no? La sporcizia si annida all'interno della buca, diciamo così. Sì, sì, sì. E voi pensavate, cioè, da pulire questa sporcizia così generica, esatto, insomma. Esatto. E avete sollecitato in questa direzione. Poi cosa è successo? È successo che la preside, per la verità, era al corrente del sospetto, incaricò il suo responsabile sicurezza e prevenzione, il quale disse che effettivamente la tipologia poteva far pensare, ma fino a quel momento non c'era la sicurezza assoluta. A questo punto... Ma basta un sospetto quando si parla di scuola e di bambini che ci vanno. Cosa è successo dopo e cosa hanno dovuto affrontare questi genitori per poi arrivare a delle rassicurazioni? Lo raccontiamo tra poco, prima andiamo a controllare la situazione del traffico. Io sono o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? La scuola, quella dove tra l'altro si giocano le sfide della globalizzazione, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di ogni Stato. Eppure si tagliano 26.500 insegnanti, si tagliano i precari, che non è un segno zodiacale, anche se fa rima, precario, un sagittario non c'entra nulla, è una formula con cui si inquadrano quelle persone che poi per anni insegnano ai nostri ragazzi o tengono in piedi l'edificio e si sottraggono miliardi di euro, prima con la legge 133 del 2008, poi taglia la finanziaria e adesso si scopre che c'è l'amianto nelle palestre, nelle strutture, nei tubi, nei muri e spariscono anche i 358 milioni che servivano per eliminarlo, per bonificarlo. Ieri il ministro Maria Stella Gelmini, in un'intervista proprio al Messaggero, ha dichiarato che i soldi sono stati trovati, dunque da ottobre comincerà questa bonifica. Vi tranquillizza? È la domanda del sondaggio di oggi. Votate su www.radio24.it. Il numero SMS per partecipare alla trasmissione 349-238-6666 e il numero di telefono 800-24-0024. Stavamo raccontando una storia finita bene per l'ostinazione dei genitori che notano questa sporcizia nell'istituto Bitossi sotto una sorta di piastrella che era stata rimossa. Insistono perché venga pulita, si scopre che è amianto, questo a Roma. All'inizio si tenta da parte dell'istituto scolastiche di minimizzare, ma proprio perché rimuovere l'amianto ha dei costi specifici. I genitori diventano creativi, decidono di non fermarsi e di aspettare addirittura alle mano sulla soglia. In senso letterale, cos'è successo? Ce lo racconti in sintesi, Antonio Di Giovanni, lei che è un membro del consiglio d'istituto. Sì, sì. Fortunatamente il nostro presidente del consiglio d'istituto ha avuto un'ottima idea, la signora Laura Cigna, e ha anche fortuna, è riuscita a parlare col sindaco il giorno delle elezioni regionali e quindi insieme a dei giornalisti ha chiesto al sindaco se il suo seggio poteva essere messo in sicurezza, visto che era frequentato giornalmente, come dicevo prima, da 700 bambini. Il sindaco, per nostra fortuna, si è fatto carico del problema e ha detto che avrebbe provveduto a fare dei lavori. Ovviamente noi genitori ci siamo comunque dati da fare, analisi, controanalisi, eccetera, e per fortuna in questo caso la politica ha tenuto fede in maniera seria a quello che aveva promesso. In questo caso, dunque, dopo una serie di assemblee, riunioni, insistenze notturne, è stata strappata questa promessa ad Alemano e si è intervenuto. Però i comuni e le province hanno le mani legate. Certo. In qualche modo anche dal punto di vista della possibilità di intervento, cioè pur avendo a disposizione a volte dei fondi per intervenire sull'edilizia scolastica, non possono utilizzarli. Voi cosa avete chiesto, Gianluca Galletti? Il problema è proprio questo, cioè io dico al ministro Gelmini: stiamo attenti a fare degli spot elettorali sulla pelle dei nostri figli, perché questa è la cosa peggiore che si possa fare. Allora, dire abbiamo stanziato 380 milioni per l'edilizia scolastica non vuole dire assolutamente nulla, nel senso che i soldi prima di tutto li deve trovare, come dicevo prima, ma anche se li trovi, visto che gli interventi devono farli i comuni, perché la manutenzione degli edifici scolastici è a carico dei comuni e delle province, i comuni e le province, per i vincoli del patto di stabilità, quei soldi non possono spenderli, cioè anche se glieli do, comunque o non possono spenderli o fanno molta fatica a spenderli. E dunque quindi, la richiesta è che i comuni e le province possano in qualche modo scomputare possano di fronte a questa priorità. Non conteggiare i soldi spesi per la manutenzione delle scuole ai fini del patto di stabilità. Perché guardate, oggi il problema è quello dell'amianto, ma domani sarà quello della manutenzione proprio delle scuole. Cioè i comuni e le province non stanno più mettendo a posto le scuole perché non riescono a rispettare i vincoli del patto di stabilità. Allora, prima che ci scappi la tragedia, interveniamo, perché sennò piangiamo sempre il giorno dopo, perché se io non faccio manutenzione, casomai i primi anni sto anche bene, il problema è che dopo 4-5 anni quell'edificio incomincia a avere dei problemi di staticità. E ricordiamo che il 56% degli edifici scolastici in Italia sono stati costruiti prima del 74, questa è una fonte Legambiente, e il 38% hanno bisogno di interventi di manutenzione urgente anche prima della scoperta dell'amianto. Adesso diamo la voce agli ascoltatori. Pronto, da Brescia, Massimo, pronto? Sì, pronto. Massimo, buongiorno, dica. Niente, ascolti, solamente una cosa, siccome mi sono occupato a livello professionale di bonifica di amianto, ecco, bisognerebbe cercare di non fare allarmismi, perché purtroppo l'amianto è stato utilizzato in tutte le strutture, in varie tipologie edilizie nel corso degli anni, ma non è che sia tutto pericoloso. Allora quando è pericoloso? Lei che è un esperto. Bisognerebbe andare, prima di tutto il contenuto di amianto di alcune strutture edilizie è veramente basso, parliamo di percentuali del 1-2-5%, a differenza della coibentazione delle centrali termiche in cui raggiunge anche il 60-70%, lì effettivamente ha dei rischi. E poi soprattutto prima di dire facciamo le bonifiche bisognerebbe fare le analisi ambientali, per cui andare a vedere se c'è amianto nell'aria, se non c'è, perché andare a spendere soldi per bonificare in fretta e furia in situazioni in cui magari non è necessario, mi sembra già secondo lei è uno spreco, insomma, pochi soldi quando non è necessario. Guardiamo anche alla fattibilità dal punto di vista del denaro. Il dottore Mauro Mocci cosa risponde? Purtroppo non mi trovo d'accordo su questo, perché per l'amianto come per altre sostanze non ci sono delle soglie di rischio al di sotto delle quali non ci sia pericolosità. È ovvio che un'esposizione a lungo o in ambienti dove la quantità è maggiore, il rischio è maggiore, ma anche in piccole quantità è pericoloso. Ora è ovvio, noi non vogliamo fare allarmismo, assolutamente, noi vogliamo fare informazione, ma sono anni che lo diciamo, per cui se non si rispetta questa procedura di messa in sicurezza, e qui vorrei aggiungere un'altra cosa, se mi permette, non solo l'amianto, ma andare a verificare le situazioni, perché noi sappiamo il radon, allora verificare la salute di questi ambienti dove i nostri ragazzi passano le ore, passano più di metà della vita in quel periodo, i campi elettromagnetici, e io non vorrei che nel momento in cui si vadano a fare ristrutturazioni si facciano purtroppo con dei materiali che tra un po' di anni si diranno pericolosi, lo sappiamo già, perché vengono utilizzati purtroppo per fare dei materiali le ceneri dei residui della combustione di centrali elettriche a carbone o di inceneritori. Allora mescolare queste ceneri con delle sostanze e poi piastrellare le scuole è un delitto che noi scopriremo tra un po' di anni. Allora bisognerebbe mettere attenzione subito, la prevenzione vera è questa, cioè prevenire quello che già sappiamo, e lo sappiamo già. Allora è ovvio che andranno fatte con rispettando le priorità di gravità, e questo è fuori di ogni dubbio, è normale che sia così, ma va bonificato tutto, anche le quantità minime. Certo, se sono ancora non espellono queste sostanze, cioè l'asbesto non viene liberato, l'amianto non viene liberato da questi pannelli o da questi pavimenti, è ovvio che si aspetterà il tempo giusto per metterle in sicurezza, ma capito. Va fatto assolutamente. È stato molto, molto chiaro. Tornerei a Nino Cirillo, il giornalista che è riuscito a scoprire questa situazione, almeno a parlarne, perché sembra che fosse parzialmente cosa nota. C'è poi anche un problema di smaltimento, Nino. Esatto, ma infatti la notazione dell'ascoltatore da un lato appare rassicurante, dall'altro è da brividi, nel senso che se dovessimo seguire i suoi consigli dovremmo pregare ogni giorno che non si spacchi nessuna mattonella di amianto in nessuna scuola e che l'amianto rimanga ben nascosto. Perché? Perché in Italia non esistono, e questo sono ancora inutile a dirlo, sufficienti luoghi dove smaltire tutto l'amianto che abbiamo incorporato in questi anni. E quindi bisogna solo pregare che non si apra una crepa. Che non si faccia un buco nel muro, per esempio, perché a volte basta questo. E la politica, è stato detto, è arrivata ora dopo questa inchiesta giornalistica. C'è anche qualcuno che ci segnala, questo amianto non è che sia stato messo lì dal governo che ora abbiamo, naturalmente le responsabilità della mancata bonifica non possono essere addebitate politicamente a una parte, perché l'amianto esiste, è stato usato massicciamente proprio per le sue caratteristiche di resistenza negli anni 60 fino agli anni 80, fino a che si è arrivati negli anni 90, una volta accertata la sicura pericolosità, a decidere che andava rimosso. Onorevole Galletti. Ma se la politica continua a giocare allo scaricabarile non si va da nessuna parte, cioè se un governo dà la colpa al precedente, quello precedente, ancora quello precedente, i problemi non si risolvono mai. Adesso questa inchiesta ha avuto l'aspetto positivo di mettere in rilievo un problema vero. Allora io dico, mettiamoci tutti insieme, destra, centro, sinistra, io impegno il mio partito, l'UDC, per risolvere questo problema. Arrivati in Parlamento a settembre, facciamo subito una leggina per escludere dal patto di stabilità gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici. Lì vediamo chi ci sta e chi non ci sta. Perché è arrivato il momento, davvero lo dico, di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per togliere l'amianto. Se no, ripeto, noi fra un po' saremo a piangere una tragedia, purtroppo. Allora, come è già successo a Rivoli. È seria se si misura sulle cose. Questa è una cosa concreta che i cittadini capiscono. Vediamo subito a settembre chi ci sta e chi non ci sta. E come è successo, l'abbiamo visto in questi anni, in diverse tragedie che hanno colpito la scuola italiana, come è successo a Rivoli per esempio col soffitto che ha ceduto, come è successo nel caso di San Giuliano Milanese, per andare ancora più indietro. Muoversi prima, questo è il messaggio. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ci fermiamo per ora, potete continuare a votare. I risultati del sondaggio fino a questo punto, vi tranquillizza la promessa che ci sarà una bonifica nelle scuole italiane da ottobre? Hanno votato sì il 32% degli ascoltatori e no il 68%. Volete contribuire? Date il vostro voto www.radio24.it su bianco o nero. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani mattina alle 7:15 e l'augurio di una splendida giornata.